che cazzo tutta Italia. Niente mi ferma, splendo e divento leggenda. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Basio Bay, fuck Versace, il cuore nelle tracce. Sono una cima di parpole tra le erbacce. Questa gente è falsa, ho perso il conto di quante facce. Ho subito insulti e minacce, ma vivo ancora per il re. E ho troppo swag, troppo swag. Questi si chiedono che cos'è. Per scordarmi di sti fami serve un bel po' di percoset. Paraceta, metanfeta, questa sera è la mia ora. Non mi uccido con una pistola, meglio le droghe e l'amaro in gola. Tutto fatto all'intervista, sti cazzi giornalista. Scrivi che ne scrivo quanto basta per mandarli in fissa. Non puoi fare niente per fermarmi, no, no. Fuori il mio mixtape è il panico. Volo in aria, mi succhia il cazzo tutta Italia. Niente mi ferma, splendo e divento leggenda. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Il mio sole tornerà e splenderò come nessuno ha fatto mai. Arriverà il giorno che tu vorrai essere me, ma non sai cosa ho fatto per trovarmi qua. Se vuoi, seguimi, ma quelli come me è meglio che li eviti. Tra sorrisi, problemi, non mi chiami, non ci tieni, no. Dimmi che cambia, tanto io no che non cambio. Notte in bianco al bancone, chiaro che ne ordino un altro. Lei sembra un idiota, mi guarda, si bagna e sviene. Se penso che volevo solo scrivere bene, coi miei profumiamo come nell'Eden. Il colpo grosso, Ocean's Eleven. Volo in aria, mi succhia il cazzo tutta Italia. Niente mi ferma, splendo e divento leggenda. Ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ricorda la faccia, il nome e poi che rappo quello che tu no che non puoi. Se domani muoio nella bara avrò le scarpe, anelli, catene. Voglio quella al collo, odio quella ai polsi. Oh mio Dio, ciao mamma, ciao state, non mi drogherò, no. Quanti devo spenderne per arrivare al top? Panico, una tanica, 20 litri di pro, yeah. Guarda come bruciano, ah, ah, ah, oh. Volo in aria, mi succhia il cazzo tutta Italia. Niente mi ferma, splendo e divento leggenda.